propone. Odio chi rinvia ogni soluzione a confronti o dibattiti infiniti con il solo intento di non affrontare i problemi. Odio chi confonde pari possibilità con assistenzialismo per finto buonismo. Odio chi, per basso opportunismo, sfrutta il problema immigrazione con accenni di un ipocrita egualitarismo, dimenticando che l'immigrato ha dei problemi concreti che ne incentivano la possibilità di delinquere e lo rendono differente dall'italiano. Insomma, sono figlio di una visione della vita disincantata e pragmatica, per questo non priva di sani e alti principi sociali, senza le tante ipocrisie care a un socialismo sociale egualitario sempre di moda in Italia. Sicuro che tutto ciò sia comune all'intera classe dirigente italica, da sinistra a destra, mi preoccupo in particolar modo della sinistra, essendo la parte politica a cui idealmente appartengo. Quindi mi domando come faccia il segretario del PD, quello che Veltroni definisce il più grande partito riformista italiano, ad affrontare la riforma Gelmini rinviando tutto il problema scuola a un confronto tra le parti. Il suo compito di leader dell'opposizione è proporre reali e concrete alternative. Si presenti un disegno di legge alternativo, lo si spieghi ai cittadini. Poi li si chiami a raccolta, anche in piazza, se necessario, per far sentire il proprio dissenso al governo. Usare la piazza come mezzo di pressione nei confronti del governo, senza proposte alternative, concrete e immediatamente realizzabili, è irresponsabile e demagogico. È dannoso quanto, se non di più, dell'approvazione di una brutta riforma. Questo è il morbo di ogni opposizione in Italia, e la destra fece identiche manifestazioni quando era all'opposizione. Massimiliano. Vorrei affrontasse il tema dell'attuale struttura universitaria che di fatto impedisce a chi lavora di potervi accedere e costringe gli studenti universitari ad essere mantenuti dalle famiglie. Mentre col vecchio ordinamento ci si poteva laureare preparandosi a casa, oggi è obbligatoria la presenza alle lezioni e gli esami sono talmente tanti da apparire inutili. Mariella. Nel 1980 furono assunti a tempo indeterminato circa 20.000 ricercatori senza concorso. Noi precari vorremmo una valutazione sulle pubblicazioni e sulle ricerche di questi signori. La media di età dei ricercatori italiani è infatti di circa 50-55 anni. Le tre tornate di concorsi che si sarebbero dovute svolgere nel corso del 2008 e del 2009 erano pensate bene, in quanto si prevede che nei prossimi anni circa il 20% dei docenti vada in pensione. Vogliamo l'età pensionabile per i docenti universitari. Personalmente sono pronta al precariato, lo vivo da anni. Voglio essere valutata per il mio lavoro, ma voglio essere retribuita con dignità. Io tengo tre corsi con 180 studenti circa per due corsi di triennale e 40 circa per la specialistica con un contratto co-co-co di 2.700 euro lordi. Naturalmente svolgo altre attività lavorative per vivere. Perché noi dobbiamo pagare gli sprechi e i ladrocini che in questo paese si sono compiuti nei decenni trascorsi? Silvia. Egregio direttore. Ho l'abitudine tutte le mattine, appena sveglio, di sentire la radio e quindi di aprire il televideo per avere un riassunto dei fatti accaduti nella notte. Mercoledì era un giorno particolare e ho guardato i risultati delle elezioni negli Stati Uniti. Ho visto così che nella notte erano già stati fatti i messaggi di felicitazione di Sarkozy e di altri. Il presidente Napolitano glieli ha fatti in mattinata. Ho notato che il nostro presidente del Consiglio non è intervenuto tempestivamente. Forse perché la vittoria di Obama lo rendeva il più anziano nelle prossime riunioni del G8, come aveva chiosato mesi fa durante il passaggio di Bush in Italia? Da uomo di sport mi sarei aspettato una maggiore tempestività. Agostino. Come avevo previsto da mesi, si delinea la vittoria con largo margine di Obama. Ora gli Stati Uniti devono difendere il presidente da possibili attentati. Devono poi diffidare dall'alleato Italia, popolo appunto inaffidabile. Come è emerso senza ombra di dubbio nel 1987, quando Craxi e Andreotti avvisarono il feroce dittatore libico Gheddafi del raid americano, tradendo la fiducia dell'alleato. Gli italiani sono ancora affetti dal cancro comunista, che ne dica il Presidente della Repubblica. Abbiamo avuto il più potente partito comunista dell'Occidente e ora siamo il peggiore paese europeo, un paese in triste declino. Abbiamo avuto il più potente sindacato europeo e ora i lavoratori italiani sono i peggio pagati d'Europa. Questi sono fatti, non opinioni. Cesare Anzio. Dopo la notte buia, le ansie, le paure, le catastrofi, quando tutto sembrava perduto, improvvisamente è spuntato il sole. Una speranza per gli ultimi della Terra, una speranza di pace e serenità. Speriamo sia così. Ha vinto Obama. Dio l'assista, ne ha bisogno. Ne abbiamo bisogno tutti. Sergio. Questa grande vittoria di Obama forse insegna quanto siano i cittadini, in democrazia, gli artefici del proprio futuro. E dimostra a tutti quelli che quando ci sono le elezioni si astengono dal voto per pigrizia o disinteresse, quanto sia fondamentale la partecipazione. Mai come oggi l'unione è stata forza, mai come oggi un popolo ha dimostrato quanto il volere sia potere. Il privilegio di scegliere è di tutti, non sprechiamolo mai. Questo ci insegna oggi l'America. Giulia. Vittoria e discorso di Obama, parole di McCain. Con ammirazione oggi dico, mi sento americano. Roberto. Grazie, caro Roberto. Indubbiamente l'America ha dato anche questa volta una lezione di democrazia, anche nell'ottica di un sistema che non è perfetto, che lascia spazio a molte imperfezioni, che consente scelte sbagliate da chi è chiamato a governare. Ma è un sistema che sa cambiare, che sa avere fiducia nelle persone, che sa rischiare. Certo, in questa elezione un grande ruolo hanno avuto le strategie di comunicazione, il marketing, la pubblicità televisiva, così come tutte da scoprire saranno le lobby finanziarie che hanno fornito al senatore dell'Illinois i mezzi necessari per puntare e raggiungere la Casa Bianca. Ma alla base c'è una persona che ha saputo rappresentare la voglia di cambiamento dopo la controversa presidenza Bush. Una persona che ora ha la grande responsabilità di far tornare credibilità al sistema americano. È giusto oggi sentirsi un po' americani, con una partecipazione alla gioia e alla speranza di quel paese, guardando avanti, perché da un rafforzamento della democrazia americana abbiamo tutto da guadagnare. Davvero è molto triste vedere questa guerra tra poveri, dove si spara a zero su tutto e su tutti senza sapere praticamente nulla. Taccia chi non conosce il mestiere del pilota, quanto guadagna, come fa carriera e cosa vuol dire diventare pilota e nonostante tutto giudica. Taccia chi fa i conti in tasca ai piloti senza sapere nulla sulle loro responsabilità in servizio, ma nonostante questo parla e parla. Ma invece di lamentarsi poteva farlo lui il pilota, visto che si straguadagna facilmente. Taccia chi non sa cosa voglia dire privilegio e, nel migliore dei casi, è solo invidioso di qualcun altro senza nemmeno sapere cosa sono davvero questi privilegi. Taccia chi pensa che gli equipaggi siano formati da uomini e donne viziati che si fanno venire a prendere sotto casa come se fosse il servizio limousine. Taccia chi pensa che a ogni volo i piloti se ne stiano 2 o 3 giorni in vacanza in belle città, in hotel a 8 stelle. Taccia chi crede di saper riconoscere un bravo pilota in base all'atterraggio e crede che i piloti si portino le famiglie in vacanza in prima classe a spese dell'azienda. Taccia chi non sa nemmeno cosa sia il trasporto aereo e come funzioni, ma dispensa giudizi morali, tecnici ed economici su Alitalia, compagnie estere e low cost. Taccia chi legge un articoletto o guarda la TV e inizia a vedere i cattivi, ladri e disonesti ovunque, ma poi non si guarda mai allo specchio. Taccia chi vede raccomandati e caste ovunque e che si lamenta solo perché in questi giochi non ci guadagna, ma appena all'occasione passa sopra a chiunque per fare il mafiosetto come e peggio degli altri, diventando parte del poteruncolo anche lui. Taccia chi è avvelenato col mondo e oggi rinfaccerebbe a chiunque di essere privilegiato solo perché ha un lavoro migliore del suo. Taccia l'informazione serva del potere di riferimento e ignorante sugli stessi argomenti che racconta in modo populista e fazioso. Il caso Alitalia è disarmante in questo. Taccia l'ignoranza della gente che è il vero ed unico serbatoio di voti di una democrazia davvero anomala e viziata come la nostra, piena di poteri piccoli e grandi che si combattono e si ostacolano. Taccia chi vuole vedere i dipendenti all'Italia a casa senza lavoro, non capendo che la ruota dei tagli e del risparmio sulle tasche di chi lavora sta girando per tutti. Tacciano coloro ai quali è già andata male e sperano che anche agli altri vada male, anzi, peggio. Luca. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.